Grazie per avermi invitata. Sono una non storica e mezzo storici, quindi il mio approccio sarà forse un po' diverso, ma spero possa contribuire utilmente al dibattito. Il mio intervento vorrà partire innanzitutto da, per l'appunto, una definizione, una contestualizzazione molto veloce e nei limiti delle mie capacità e delle mie conoscenze storiche abbastanza circostanziali della situazione della diaspora africana negli Stati Uniti, dopo l'indipendenza dall'Inghilterra praticamente, e vorrei sottolineare un po' per l'appunto la normalità di quella realtà rispetto a, per esempio, l'appunto quella dell'occupazione dell'Algeria, del rapporto che in Algeria c'è stato tra europei e algerini, tra francesi e algerini e via dicendo. Nel mio discorso ogni tanto forse farò qualche riferimento anche alla realtà caraibica, che è un'altra realtà su cui mi sto concentrando inevitabilmente. Il fatto che gli Stati Uniti siano stati creati di base a livello di gestione di risorse, soprattutto con lo sfruttamento della schiavitù, in particolar modo nel sud del paese, ha fatto sì che una volta che gli Stati Uniti si sono costituiti in quanto nazione indipendente, chi avesse voce in capitolo a livello ideologico, a livello filosofico, a livello soprattutto comunque di interessi economici, perché di quello si parla di base, erano naturalmente popolazioni di provenienza caucasica, immigrati, voglio dire, inglesi, olandesi, gente che veniva dall'Europa fondamentalmente. Si è instaurato un rapporto con le popolazioni deportate, che di base erano dei colonizzati non in casa loro, quindi. E naturalmente in questo discorso non sto parlando, non sto neanche tenendo in considerazione i locali, quindi gli indios e via dicendo, e tale per cui naturalmente la struttura statale statunitense e di conseguenza anche la conformazione politica e di conseguenza l'aspetto della formazione, dell'educazione, dei concetti che vengono passati alle nuove generazioni formato, sviluppato in maniera molto complessa e comunque caratterizzato da un forte stampo europeo, anche se vuol dire tutto e non vuol dire niente, non entro nel dettaglio, posso, perché non me ne intendo precisamente, o se volessi entrare nel dettaglio dovrei forse perdere troppo tempo, comunque di stampo puritano piuttosto che di stampo rifacente sia impostazioni filosofiche hegeliane, via dicendo. Questo cosa ha comportato? Che la questione dell'accesso alle risorse, della decisionalità in ambito economico, in ambito politico, è naturalmente stata limitata a delle precise elite culturali e dei precisi gruppi di potere, via dicendo. I movimenti che sono nati in seno all'immigrazione legata alla diaspora africana sono stati tutti dei movimenti di rivendicazione di diritti in una situazione in cui il razzismo, la pressione della discriminazione razziale era tale per cui, col progredire della storia, col passare del tempo, l'accesso alle risorse di fatto implicava una integrazione, se non una totale assimilazione, ovviamente, alle modalità di pensiero, tra virgolette, di provenienza europea. Prima di andare avanti troppo nel discorso, vorrei subito specificare che non sto impostando la mia riflessione in senso essenzialista. Quando parlo di europeo piuttosto che di Europa piuttosto che di diaspora africana, parlo di esperienze molto circostanziali, pressioni politiche esercitate o subite, pressioni economiche esercitate o subite che definiscono il soggetto, non tanto che il soggetto sceglie di per sé. Prima, quando ci eravamo trovati per discutere un po' di come impostare l'esposizione, la discussione, stavo dicendo che avevo pensato come paragone per far capire di cosa parlo quando parlo di bianchi o di neri per semplificare e banalizzare il discorso. È un po' questa dinamica a cui penso, cioè quando noi cominciamo, andiamo a scuola, superiori, andiamo a scuola e arriviamo in prima superiore, abbiamo, non so, uno arriva, è abituato ad ascoltare De André e ha le canzoni De André in testa, così arriva in classe ci sono quelli che ascoltano per esempio Snoop Dogg, un gruppetto di fighi che in un certo senso ha un forte impatto anche visivo, impositivo sul gruppo classe, per esempio, no? E allora quello che arriva ascolta De André, magari se capita in una classe in cui non c'è tanta gente che ascolta De André e Snoop Dogg ha delle sonorità che funzionano meglio, cosa fa? Si incuriosisce per Snoop Dogg, inizia ad ascoltarlo, ma si mantiene comunque fedele alla linea di De André, oppure rinega De André perché non riesce a sopportare la pressione di quelli che ascoltano Snoop Dogg e quindi, cioè, è costretto in un certo senso a rinnegare il suo passato, oppure si radicalizza su De André e si rifiuta di ascoltare Snoop Dogg, cioè non c'è verso, anche se gli suona bene non lo ammetterà mai. Io, cioè, ho avuto la sensazione, avendo avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti, che il discorso della problematica razziale sia molto impostato su questo, e per, naturalmente per semplificare, qual è il problema negli Stati Uniti? Che il background deandreiano, come metaforizzo io adesso, è andato molto perso, e quindi tutti i movimenti di rivendicazione dei diritti si sono sempre dovuti appoggiare, lui faceva riferimento alla negritude per esempio prima, a delle basi culturali o ideologiche che tendevano a cadere molto facilmente nell'essenzialismo da un lato, cioè queste famose radici africane, cosa sono, cosa non sono. Di fatto queste radici sono molto più facilmente individuabili in realtà sincretiche, creole, come per esempio sono la zona dei Caraibi o anche alcune parti del Sud America, rispetto agli Stati Uniti, dove esiste adesso c'è una forte immigrazione caraibica, per cui queste cose sono molto più visibili che anni fa. Ma quando nell'Ottocento e poi nel Novecento ci sono stati tutti i grandi movimenti di rivendicazione, naturalmente la popolazione afroamericana, per mille ragioni, i diritti civili li rivendicava in seno alla struttura statale americana. Quindi tutti i movimenti si sono molto definiti per l'appunto rispetto a degli schemi di pensiero, tra virgolette, alla Snoop Dogg, che è un nero tra l'altro, quindi mi passate, capito, la metafora, per dire che e non c'è nulla di essenzialista, è molto di politico, molto di economico in tutto. Cioè, la conseguenza qual era? Che nei tre quarti dei casi la popolazione afroamericana era, oltre che a versare in condizioni economiche disastrose, era di fatto in una situazione quasi di apartheid fino a, cioè, negli anni 20 si stava cominciando a scardinare questa situazione di apartheid di fatto, con linciaggi vari annessi e connessi. Non a caso il Black Panther Party è stato il primo movimento che ha detto, cioè, noi adesso, voglio dire, è da 200 anni che ci stanno impiccando, che ci stanno dando fuoco alle case con bambini dentro, visto che la Costituzione americana garantiva a tutti i cittadini americani il diritto all'autodifesa armata, allora hanno preso le armi e hanno detto, noi difendiamo le nostre comunità. Oltre a questo hanno cominciato anche a organizzare situazioni di distribuzione del cibo, scuola, educazione e via dicendo. In un periodo in cui comunque, per carità, l'accesso alle università americane pian piano si stava aprendo anche da un pezzo, comunque anche a persone di colore e così via. E per l'appunto Fanon quindi è stato molto rilevante per il movimento del Black Power in questo senso, perché era contenuto, cioè anche nell'estetica in un certo senso del Black Power era... veniva recuperato questo appello a noi non ci stiamo più, che usava Fanon. Dunque io mi sono occupata di un periodo che è il Rinascimento di Harlem, si chiama, che di fatto è un movimento letterario degli anni 20 che si sviluppa a New York a seguito della migrazione, della grossa migrazione che c'era stata alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, delle popolazioni contadine, dei neri che lavoravano i campi dal nord, dal sud contadino al nord industrializzato, quando durante la prima guerra mondiale si erano liberati i posti in fabbrica, e quindi tra l'altro il nord naturalmente aveva nell'immaginario collettivo delle comunità nere una parvenza e di fatto anche in parte una sostanza di territorio più libero, più aperto, in cui la discriminazione, l'oppressione razziale meno percepibile, cioè, era molto percepibile ma meno fisica, cioè si rischiava meno di venire sparati, passatemi il dialettismo. E quindi per esempio il Rinascimento di Harlem è stato un esempio di movimento per la rivendicazione dei diritti civili, che è passato attraverso l'uso della letteratura e delle arti per dimostrare che anche i neri erano umani e anche loro si meritavano i diritti civili, quando naturalmente questa è una sola declinazione delle diverse modalità di cercare di ottenere accesso all'utilizzo delle risorse tra le varie che erano state usate negli Stati Uniti. Volevo appunto sottolineare, o meglio contestualizzare, il Rinascimento di Harlem piuttosto che il Black Power rispetto a alcuni esempi di questi movimenti, e citando solo alcune figure di rilievo. Allora, nell'Ottocento c'era già stato un personaggio che si chiama Booker T. Washington, nel sud degli Stati Uniti, il quale aveva detto: accettiamo il fatto che ci considerino degli scemi. Lui aveva creato una specie di istituto tecnico universitario, dicendo: appropriamoci della conoscenza della gestione dei mezzi tecnici, noi neri, e così poi almeno possiamo controllare le risorse per quello che ci concerne. Il discorso poi era molto più complesso, nel senso che lui era sempre, come si potrei dire in termini gergali, un pettinaro, nel senso che aveva degli intrallazzi con grossi possidenti bianchi, a cui andava molto comodo che i tre quarti della popolazione non europea fosse assoggettata a delle dinamiche economiche che non poteva controllare. L'accesso all'istruzione solo in termini vocazionali, cioè in termini tecnici, non avrebbe consentito un'emancipazione anche ideologica, che è quello che poi ha cercato di creare, per esempio, Du Bois a New York, anche attraverso il Rinascimento di Harlem, attraverso l'NAACP, per esempio, che era un'associazione per l'ottenimento dei diritti civili degli afroamericani all'interno della società civile borghese, quindi all'interno di realtà accademiche, all'interno di realtà di lavori di tutti i tipi, non strettamente legati all'ambiente della fabbrica e via dicendo. Quindi questa è stata un'altra modalità di ottenimento di accesso alla gestione della cosa pubblica, tra virgolette. Poi c'è stato il movimento di Martin Luther King, quindi spingeva molto di più su un aspetto conciliatorio, non violento. C'è stato Malcolm X, che riprendeva le radici islamiche di una parte della popolazione della diaspora. Non dimentichiamoci, tornando agli anni 20, Marcus Garvey, che arrivava dalla Giamaica e proponeva un panafricanismo radicale, tutti indietro in Africa, anche chi non vuole, creando la Black Star Line Company, che poi è fallita immediatamente, però l'idea era buona, quella di, per l'appunto, rimettiamo un attimo le mani radicalmente sulla situazione. In tutto questo, la comunità nera, che è una comunità assolutamente eterogenea, non ha avuto veramente modo come dire, secondo una certa scuola di critici che si sta sviluppando adesso, che è quella in cui io mi sono imbattuta e che sto un attimo approfondendo, che è quella degli Africana Studies. La comunità nera negli Stati Uniti non ha avuto modo di analizzare l'aspetto misto della propria cultura, come dire, prendendo coscienza del fatto che c'era una fortissima presenza culturale, con tutte le conseguenze sociali, che veniva ideologicamente dall'Europa, che aveva colonizzato e deportato gli africani nel Nuovo Mondo, per cercare di individuare quali erano o quali fossero quegli elementi che si sono conservati molto, soprattutto a livello popolare, soprattutto comunque al di fuori degli Stati Uniti, e per l'appunto avevano delle derivazioni, ritornando alla metafora di prima, de Andreiane, cioè dei territori da cui loro arrivavano e che si portavano con sé. In questo senso, Fanon, per tornare all'autore di cui si parlava oggi, come è stato ripreso dal Black Panther Party per quanto riguarda una violenza attiva e concreta nelle strade, viene ripreso per esempio da questi studi oggi in termini di quella che viene definita, tra virgolette, cioè che io definisco in realtà violenza epistemologica in un certo senso, cioè per l'appunto tirare fuori questa specie di colonizzazione culturale che ha schiacciato delle pratiche sociali, delle pratiche comunitarie, che non si sa ancora bene quali siano, ma che per esempio nell'ambito dei Caraibi è possibile ricostruire in parte e che caratterizzavano le comunità di deportati, che tra l'altro durante la deportazione erano stati ben mescolati tra di loro per evitare che creassero sommosse, una volta arrivati nel Nuovo Mondo. Per fare degli esempi un po' più concreti e specifici di a cosa mi posso riferire quando Faccio riferimento a questa ricostruzione che si cerca di fare oggi a livello epistemologico, di quello che in un certo senso è stato represso, censurato e via dicendo nelle esperienze della diaspora africana, che si mantiene più in certi territori che in altri, ripeto, quindi si mantiene di più in tutta la comunità caraibica, sia nei Caraibi che negli Stati Uniti, di quanto non si mantenga nella comunità afroamericana, e tra l'altro in questo si potrebbe fare anche un discorso sul razzismo che esiste tra comunità, perché per esempio gli afroamericani storcono abbastanza il naso contro i caraibici, che storcono molto il naso contro gli afroamericani buttati e fagocitati dal capitalismo, quindi ci sono poi tutte delle questioni anche interne che esplicitano quanto eterogenea sia questa realtà che in Occidente viene semplicemente conosciuta con termini abbastanza omogeneizzanti e quindi semplificanti. Comunque, per esempio, si parlava prima di esistenzialismo e di Sartre. Una questione che viene sollevata da uno degli studiosi di cui mi sono trovata a leggere le cose, che è tal Lewis Gordon, beh, in realtà è anche più di uno, sono tutti delle persone che vivono negli Stati Uniti ma che sono originarie dei Caraibi. E ci si sta ponendo delle domande sull'esistenzialismo sartriano, quindi esistenzialismo europeo, e paragonato a quello che loro definiscono l'esistenzialismo africano. Se l'esistenzialismo europeo è figlio in un certo senso del Novecento, quindi molto caratterizzato anche da pratiche decostruzioniste, che il soggetto, tra l'altro borghese, che ha tempo di riflettere sui problemi della vita, si pone rispetto a chi sono, cosa faccio e qual è il mio ruolo nella società. E si stanno portando avanti delle analisi, delle riflessioni sull'esistenzialismo africano, che invece è molto più legato a delle pratiche di simbolizzazione della realtà, meno secolarizzate e più legate al mito, a concetti legati al predestinismo piuttosto che all'identificazione nella libertà di vivere la comunità, qual è il proprio percorso e via dicendo. La stessa dinamica hegeliana padrone-servo, che è anche qui non assolutamente per fare dell'essenzialismo, ma per sottolineare il fatto che si ignora come una dinamica del genere potesse funzionare in comunità non europee. Potrebbe essere interrogata e posta in questione, cioè la dinamica padrone-servo è quella per l'appunto in cui il padrone è quello che decide: sì, io sono anche disposto a morire pur di asservirti, quindi diventi il mio servo, io ti posso sfruttare di conseguenza, però poi il servo è quello che lavora la materia e quindi si definisce in quanto persona in grado di padroneggiare la tecnica, e in un certo senso può anche essere messo nella condizione di asservire il padrone, in questo senso, qualora fosse messo nelle condizioni di appropriarsi effettivamente delle risorse. Una questione che può essere posta, ma è solo una questione a cui non c'è una risposta, e la risposta potrebbe essere una costruzione, una narrativa, non è detto che possa essere qualcosa di vero, come la stessa dinamica padrone-servo può essere una narrativa se viene ben pensata rispetto a chi è il padrone e chi è il servo e perché il padrone è padrone, di fatto, in termini economici e via dicendo. Non è detto che esista in una comunità organizzata in maniera diversa a livello di suddivisione dei ruoli, anche semplicemente adulto, bambino, maschio, femmina e via dicendo. Cioè non è detto che ci sia necessariamente in tutte le esperienze sociali e in tutte le esperienze comunitarie una dinamica che implica che ci sia un padrone che si definisce rispetto a un servo e un servo che si definisce rispetto a un padrone. Voi vedete bene che qualora sia possibile impostare un discorso del genere, la riappropriazione anche a livello accademico, e l'accademia in un certo senso un'importazione europea del colono sulle popolazioni colonizzate, ma una riappropriazione anche a livello accademico di un discorso del genere potrebbe funzionare molto bene per cercare di instaurare delle dinamiche politiche radicalmente diverse, anche se non so come, in territori come quelli dei Caraibi, via dicendo, ma questi sono dei discorsi quasi, cioè, non voglio dire al limite dell'utopia, ma da sviluppare, e che questi ambiti di ricerca stanno cercando di sviluppare, portando Fanon e con tutta la sua violenza all'interno di un dibattito che è quello di come si fa ricerca, di a cosa serve la ricerca e di come chiunque abbia la possibilità, cioè chiunque sia educato, quindi il cittadino, possa di fatto intervenire pesantemente a livello sociale.